Se stasera vi rubo un minuto in più, ci sta, eh? Perché ci sono tante di quelle cose da spiegare in questa parola di Dio, a cominciare dal Vangelo, dove Gesù ci dice che dobbiamo essere costanti, anzi insistenti nella preghiera. Bello questo esempio, no? Un tizio gli arriva un ospite, non c'ha neanche un pezzo di pane. Allora va dal suo vicino e dice: fammi sto favore. E lui dice: ma come, vieni a quest'ora? Siamo già a letto, cosa vuol dire? A quel tempo non c'era appartamento, 3-4 stanze, c'era un unico vano in terra battuta, magari davanti a una grotta del terreno, e tutti dormivano lì, non c'era la luce da accendere. Una volta che era spento, che era chiuso, era chiuso. Dice: come faccio a alzarmi? Calpesto i miei bambini che sono per terra, poi devo andare a cercare dove, se c'è un pezzo di pane, non c'è luce, non c'è. Senti, un'altra volta. E dice: come un'altra volta? L'ospite mi è arrivato stasera, dai, ti prego. Alla fine dice una parola forte: anche se non si alzerà a darglieli in nome dell'amicizia, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Certamente, mentre dico questo, voi magari direte: Don, ma Gesù in un'altra parte del Vangelo ha detto: bastano poche parole perché il Signore sa di che cosa. È tutto vero, amici, ma come la luce è fatta dei 7 colori dell'iride e tutti insieme formano la luce, così la verità del Vangelo è fatta di tanti elementi apparentemente uno diverso dall'altro, che però devono stare insieme. Allora è vero che non dobbiamo scocciare il Signore perché Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, è altrettanto vero che dobbiamo essere invadenti col Signore. È vero tutto, è vero tutto. Per questo dobbiamo avere una grande confidenza con la parola di Dio, altrimenti ognuno tira la parola di Dio dalla sua parte. Volete un altro esempio? Gesù dice in una volta, in una sua frase: chi non raccoglie con me disperde. Cioè, devi stare con me, devi seguire me. In un'altra parte del Vangelo gli apostoli dicono: Signore, c'è uno che fa miracoli nel tuo nome. Noi gli abbiamo detto di smetterla, perché non è dei nostri. E Gesù sembra dire il contrario: lasciatelo fare. Chi non è contro di noi è per noi. Quindi guai, amici, quando prendiamo il Vangelo e lo usiamo come pezza d'appoggio per le nostre idee. Dio è i colori dell'iride, tutti insieme fanno la luce. Dio è un meraviglioso diamante con tante facce. Dalla loro sfaccettatura viene fuori la bellezza di queste pietre preziose. Quindi non usiamo la parola di Dio, ma impariamola e diventiamo suoi servi. Allo stesso modo voglio dirvi una parola sulla prima lettura, Samuele, 2 Samuele capitolo 6. Siamo ancora nella faccenda dell'arca. Vi ricordate che domenica l'altra era che Davide danzava seminudo di fronte all'arca, e quando va a casa se le sente da sua moglie, no? E dice: hai fatto la figura del buffone. E tutto il resto vi rimando alla predica di domenica. Questo è lo stesso, diciamo, stesso periodo, stesso brano. Gli ebrei stolti, siccome stavano perdendo la guerra contro i filistei, dicono: ah, ma adesso se noi portiamo l'arca dell'alleanza in battaglia, vedi che legnate gli dà Dio a quelli là. E invece no, perché Dio non può strumentalizzarlo. Portano l'arca dell'alleanza, i filistei sconfiggono gli ebrei e in più prendono come preda di guerra l'arca. E loro credono, finalmente abbiamo noi il talismano. Ma non è così. Che bello, amici, conoscere la parola di Dio bene. Perché allora comincia ad arrivare una pestilenza. E allora, via, via, mandala via, questa ci porta sfortuna. Chi pretende di usare Dio, gli va male. Dio non si lascia usare da nessuno. E allora la rimandano indietro. E questo è l'episodio, no? Mentre la riportano indietro, usano tutte le precauzioni, usano un carro nuovo, perché l'arca dell'alleanza, noi non abbiamo idea cosa fosse per gli ebrei. Potremmo, in analogia, non è la stessa cosa, pensare che fosse come il tabernacolo per noi, con la presenza vera di Dio. Fanno un carro nuovo, lo trasportano, probabilmente lo caricano anche male, perché a un certo punto sobbalza e l'arca sta per cadere. Allora uno dei due conduttori, Uzza, si ferma, la tiene su perché non cade. E il Signore lo fa morire. Diciamo, ma come, don? Faceva bene a lasciarla cadere? No, faceva bene a caricarla meglio. Che cosa vuol dire questo brano? Vuol dire, secondo la mentalità dell'Antico Testamento, che Dio è intoccabile. Avete presente certe icone? O quando il sacerdote dà la benedizione col Santissimo Sacramento, che mette sulle spalle il velo omerale, oppure io uso la stola per prendere in mano lo stensorio. Proprio perché Dio è immensamente superiore a noi e anche con questi gesti simbolici tu esprimi che non puoi prendere Dio così sul ridere. Poi dopo va avanti tutta la storia, no? Che non è... Perché voglio fare un salto al Nuovo Testamento. Capite la diversità che c'è tra questa idea di Dio, l'intoccabile, colui che non può essere quasi neanche guardato, alla maniera degli imperatori e dei faraoni. Voi sapete che chi compariva davanti al faraone compariva andando così e doveva andare via all'indietro, lo sapete, no? Non poteva girare le spalle a faraone, guai! Doveva andare indietro rinculando, perché davanti al faraone. La stessa cosa si aveva verso Dio, ben più che il faraone. Arriva Gesù e ti dice, ma no, l'intoccabile, l'invisibile, il maestoso è entrato nell'utero di una donna. Pensa che no. Signore, dice la liturgia, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti e tu sei andato a rinchiuderti nel grembo di una donna. Ecco la grandezza dell'incarnazione, amici. E addirittura Gesù si lasciava toccare anche il lembo del mantello. Gesù non solo si lascia toccare, ma diventa il corpo regalato a noi nell'Eucaristia. Scusate, sono stato un po' lunghetto, ma volevo farvi... Mi sono spiegato? Allora, chi è Dio per noi? È Gesù. Ma l'Antico Testamento va benissimo per vedere i passi che la fede ha fatto. La fede è andata sempre maturando, purché noi non prendiamo Gesù Cristo sul ridere. E concludo con un esempio che ho visto io. Noi quando riponiamo il Santissimo Sacramento lo mettiamo nell'altare, che si chiama anche la, nel tabernacolo, che si chiama anche la custodia eucaristica. E il tabernacolo ha tanti gesti, no? Ha una lampada accesa, la lampada della presenza, ha delle candele, ha una luce, è il corpo di Cristo che viene custodito. Bene, io vado a Lourdes, partecipo a una messa, poi devo distribuire la Santa Comunione. E allora vado con un sacrestano lì del posto, dico: dov'è il tabernacolo? Questo mi porta vicino alla sacrestia, apre una porta e c'era lì uno sportello, quello era il tabernacolo. E mi son detto: ma non si fa così. Dobbiamo avere con Gesù la spontaneità, la semplicità, ma anche l'onore. Non dobbiamo mai mancare di rispetto. Concludo con una barzelletta, forse di tutto quello che ho detto ricorderete forse questo. Un giorno il santo cardinal Schuster, il Defonso Schuster, è in una chiesa, lui andava giù presto al mattino in chiesa, alle 5:30 era già giù e il parroco doveva alzarsi anche lui a quell'orario lì, no? Van giù a pregare, lo vedono uno che passa avanti e indietro del tabernacolo senza fare la genuflessione, senza far l'inchino. E allora il cardinal Schuster con la sua vocina gli dice: vede, signor parroco, quello lì che passa senza salutare Gesù nel tabernacolo, senz'altro è il diavolo, oppure il sacrestano.